fai sentire strano, mi fai sentire strano, mi fai sentire strano, mi fai sentire pazzo, e forse sono pazzo, sì, e forse sono pazzo. Lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare.